Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Undicesima puntata. Il medico di Sorate pare ringiovanito rispetto alla prima visita. Non posso fare a meno di pensare che utilizzi i farmaci che prescrive e somministra. Sarebbe un comportamento onesto e condivisibile, rassicurante. Mi fa accomodare sulla poltrona in pelle e mi chiede come mai non ero alla stracittadina della domenica precedente. Poi si scusa. Aveva dimenticato il carattere non competitivo della corsa. Sta visionando i miei esami medici oramai da troppi minuti. È evidente che qualcosa lo preoccupa. So bene che i valori delle transaminasi, GOT e GPT, sono anomali, ampiamente fuori dal range massimo, tutti e due oltre 200, di conseguenza anche la bilirubina è fuori controllo. Da tempo mi sono reso conto dell'ittero dei miei occhi e del colore arrugginito della pelle. E non sono i soli valori sballati. Il medico ripiega in quattro il foglio e tira un sospiro lungo. Ha un alito pessimo, forse peggio del mio, che non digerisco nemmeno più le gallette di mais. Doctor, voglio fare la marathon di Usabli in primavera. Non dica stupidaggini, lei è un atleta nel pieno del vigore. Non ha ancora espresso le sue potenzialità, non è consigliabile usurarsi con follie come queste. Voglio qualcosa di eroico che dia senso alla mia carriera agonistica. Qualcosa di estremo da raccontare a mio figlio. Che ne pensa della 100 km del passatore? Troppo leggera? Ah, oggi è di buon umore, ha un figlio. No, ma chi lo sa, potrei averlo. Speriamo che possa capire quello che gli dico. Ma che senso avrebbe dirgli che suo padre fa 13,49 nei 5.000? Numeri incomprensibili. Dirò che suo padre è un duro perché corre con lo zaino a 45 gradi all'ombra in mezzo a cammelli e beduini. C'è qualcosa di militare. Ho la vaga impressione che lei mi stia prendendo in giro. Non necessariamente. Veniamo ai suoi esami. Le avevo detto di non fare allenamenti pesanti il giorno prima del prelievo. Certi valori possono sballarsi. Non è detto che sia quello il problema. Temo che non lo sia. Sto male. Insomma, il mio fisico mi dà segnali contraddittori, per così dire. Ho tentato di riempire la buca dei 3.000 siepi di vomito giallo. Non digerisco nulla, ma ho anche fatto la migliore serie dei 400 metri della mia carriera. È banale dirlo, ma anche il fattore psicologico al suo peso. Vuole scaricarmi a uno psicanalista? La costruzione di un grande atleta passa anche attraverso il controllo di fattori emotivi. Grandi atleti sono crollati nel corso di ritiri che stavano andando benissimo per una telefonata della fidanzata per un lutto. Siete esseri umani, non androidi, con le vostre zone d'ombra, le vostre turbe. O forse più semplicemente c'è un prezzo da pagare? Il suo nome è tra i 120 tenuti in considerazione per il progetto Pechino, lo sapeva? Più o meno. Presumo sia per quello che non pago alcuna parcella. Lei non mi sembra felice. Non era quello che voleva. 120 uova. Uova? Sì, da sbattere al muro. Quelle che non si rompono vanno a Pechino. Com'era la situazione doping agli inizi degli anni 90? Peggiore di quella attuale, migliore di quella degli inizi degli anni 80. La scienza non si ferma, migliora e corregge gli sbagli commessi in precedenza. Medici e ricercatori non sono politici, ammettono gli errori passati. A volte però si tratta di convivere con i sensi di colpa. Qualcuno ci ha rimesso le penne. Erano tutti consci dei pericoli. Gli atleti che entravano a far parte di programmi farmacologici erano informati, firmavano delle liberatorie che gli sottoponevano medici che lavoravano per la federazione. È possibile che all'inizio degli anni 90 abbiano fatto sperimentazioni su adolescenti? La sua è una vera e propria ossessione. No, tenderei ad escludere, piuttosto improbabile. Nel blocco sovietico con le ginnaste, con trattamenti particolari fermavano lo sviluppo delle atlete. Parlo di mezzofondiste nel nostro democratico paese. Ne dubito. Roberto Fregni e Giulio Brebanti hanno fatto parte dei tecnici che contano qualcosa in federazione negli ultimi anni. Hanno avuto fasi alterne, capita anche agli allenatori, non solo agli atleti, luci ed ombre, siluramenti e risalite, ma ho scarse notizie. Magari hanno combinato qualche grossa cazzata in passato, ma è arrivata una specie di riabilitazione dopo l'ultima elezione federale. Non ho elementi per negare o confermare la sua teoria. Non possiamo saperlo io e lei per ragioni anagrafiche. Alle scuole medie avevamo altri interessi. Adesso faccia il bambino buono e scopra il culetto. Naturalmente rifarà gli esami del sangue già la prossima settimana e non si alleni nella giornata precedente. Sta roba brucia. Lo so, ne faccio uso anch'io. Sono un modesto cicloamatore. Quest'anno ho migliorato di 3 minuti il mio record sullo Stelvio. Inutile dire che rimango su livelli vergognosi. Comunque mi sono sparite certe rughe dal viso. Meglio della chirurgia plastica, quindi. Sì, meglio. Ma tenga sempre presente gli aspetti psichici. Il corpo deve essere al massimo della ricettività, si ricordi. Positività nell'approccio alla vita, in tutti i suoi aspetti. L'infermiera qua fuori ha apprezzato i miglioramenti estetici e di performance sessuale o si è focalizzata sugli aspetti psichici? Lei è un grande osservatore, oltre che un grande atleta. Ah, Giulio non ha figli, è strano. Non lo è per nulla. Di figli ne ha avuti tanti, sono i suoi atleti, li ha curati, visti crescere, invecchiare, li ha visti scappare oppure trionfare. Alcuni lo hanno reso felice, altri lo hanno deluso, ferito. Era questo che voleva sentirsi dire. Stamattina ho trovato una mail di Sandra, 3X nell'oggetto. Dubito che i genitori di Clara possano far entrare Sandra nella camera della figlia a quell'ora. Non fosse per le foto sul blog e per la visita che ho fatto all'istituto, dovrei iniziare a dubitare dell'esistenza stessa di Clara. Clara, creatura di quella pazza di Sandra. Mi accorgo un istante prima di cestinarla che in allegato contiene un file video. È Clara che corre lungo il greto del fiume. È magra come quando era bambina, ma i tratti del viso sono appesantiti, solchi che la fanno assomigliare a una specie di gnomo. Avanza impacciata, scambia parole con la persona che sta facendo riprese talmente mosse da dare la nausea. Solo di rado guarda verso l'operatore che a quanto pare intende cronometrarla. Hanno rapporti amichevoli, Clara sorride, è serena, ma qualche minuto dopo si tappa le orecchie e si arrabbia. Non vuole ascoltare. L'istinto mi dice che non vuole sentire nessun riferimento al tempo. Perde il ritmo e si ferma. Stacca le mani dalle orecchie solo per agitarle come se bruciassero. La rabbia diventa un pianto strozzato. Nessuna parola comprensibile. Si piega sulle ginocchia e nasconde il viso piegandolo verso il petto. L'operatore è impietoso e avvicina la camera. A terra è visibile un vecchio cronometro manuale. Negli ultimi minuti l'audio è stato tolto completamente e le luci del tramonto illividiscono l'immagine. L'operatore si allontana. Sul viottolo rimane un piccolo corpo rannicchiato. Non c'è altro. Devo andare in bagno a vomitare. Il lamento di Clara è diventato il mio. Non è solo la luce a confondere le immagini. Ho gli occhi patinati di lacrime. La Clara di questo video è una bambina invecchiata, una crisalide indefinita. Non sembra la stessa persona fotografata nel blog. La data in basso a destra è recente, una settimana esatta prima della morte. Devo raddoppiare la dose quotidiana di Testovis per un assestamento morale. Devo prendere 3 capsule di Sonata per cercare di dormire. Devo smettere di piangere. Devo ordinare i fatti degli ultimi mesi. Riguardare il video e convincermi che non sto diventando pazzo. Anche se del blog di Clara in rete non è rimasta traccia. Ho digitato il suo nome in tutti i motori di ricerca. Non trovo nulla. Selezionando immagini si è materializzata la foto tombale di Clara bambina. Ho inoltrato la mail con il video e la foto tombale a Giulio e Roberto. Giulio mi ha chiamato stamattina presto. Dice che c'è un cambio di programma, dice che è ora di interrompere il digiuno. Il leoncino, nella fattispecie io, deve ricominciare a correre, a inseguire le gazzelle. Si congratula per i tempi dell'ultimo allenamento e mi parla di un circuito internazionale in un paesino tra Bologna e Ferrara. Gli organizzatori non si allargano oltre un rimborso spese da calcolare in base ai chilometri da Milano. Giulio dice che non è il momento di fare gli schizzinosi e poi sono momenti difficili per tutti, gli sponsor stanno scappando dall'atletica. Comunque danno dei bonus in denaro in base ai tempi sui 10 km del percorso, a prescindere dall'ordine di arrivo. Non devo preoccuparmi del piazzamento, solo dei passaggi al chilometro. Sarà un treno infernale fin dal primo metro, nessun tatticismo. Il livello sarà piuttosto alto, almeno una dozzina di africani. Giulio dice che mi vuole alla morte, un interessante test con il nuovo motore. Più corre, più pagano. Nel paesino padano ci saranno anche un paio di osservatori della federazione. Si aspettano un tempo sul filo dei 29 minuti, non impossibile, ma il percorso è lento e macchinoso, 10 giri di boa e altrettante curve a 90 gradi, molto pavé. Il problema è che prima della telefonata di Giulio mi sono reso conto di avere il viso gonfio. Avverto la rotondità, la fastidiosa consistenza delle ghiandole ai lati del collo e sotto le ascelle. È il sintomo inequivocabile di un attacco infettivo in corso. Non so di che tipo, ne ignoro l'entità. Potrebbe essere solo l'inizio di una banale influenza. Se lascio in libertà le connessioni paranoiche del mio cervello, si potrebbe trattare dei primi sintomi di un tumore del sistema linfatico. Non riesco a staccarmi dallo specchio del bagno. Sto con il cordless all'orecchio, mi limito a grugnire tra una frase e l'altra di Giulio. Anche lui, come il doctor, dice che dovrei essere felice. Non so cosa pensare. È la gara che aveva visto la vittoria di Clara a soli 14 anni. Il suo nome figura nell'albo d'oro che ho trovato nel sito della corsa. Era la prima edizione. Una schifosa coincidenza che mi fa ammutolire e ispezionare le ghiandole nella zona inguinale. Pronto, doc, sono Seregni. Come va? Problemi? Ho il viso gonfio, tutta la pelle sembra un po' troppo, non saprei, ispessita, non si vedono più le vene, la fibra muscolare. Ritenzione idrica, improvvisamente. Non è che passi il mio tempo davanti allo specchio, me ne sono accorto stamattina, non so, forse è stato graduale, magari non l'ho notato. Provi a premere la zona del fegato e a respirare profondamente. Sente qualcosa? Male. Una coltellata che va dalla schiena al fegato. Defeca? Direi di sì. Ghiandole? Ho la brutta impressione che scoppino. Esame del sangue? E la prenotazione è andata al prossimo mese. Venga da me, le farò una richiesta per uno studio privato. Sono preoccupato. Lei è in forma splendida. Non sa cosa darei per avere un motore come il suo. Lei non può nemmeno immaginarlo quanti vorrebbero essere al suo posto. Sono confuso. Quelli come lei sono la Formula 1 della specie umana. Le Formula 1 fanno più fermate ai box rispetto alle utilitarie. Le utilitarie come me vanno sempre, fanno 300.000 km, anche sui passi dolomitici. Piano piano arrivano al rifugio a mangiare specchi e fontina. Non mi sento una Formula 1. Come si sente? Un uovo schiacciato al muro. Che cosa mi sta succedendo? L'ultima iniezione che mi ha fatto può avere peggiorato la situazione? Al contrario, era una specie di farmaco disintossicante. Mi creda, non è nulla di grave, ma deve stare tranquillo. L'aspetto emotivo gioca a brutti scherzi. Se mi cade in paranoia è peggio. Continui gli allenamenti, esca con la sua ragazza, eviti lo specchio, ascolti solo le sue sensazioni. Non passi la giornata a palparsi le ghiandole. Probabilmente è una fase di assestamento del suo organismo. Si è stupito di certi cambiamenti e ha mandato messaggi. Segno di ottima reattività. Messaggi? Esatto, saranno comunque da decifrare, ma non mi preoccuperei. Sembro un mostro. Ho i colori dell'autunno in faccia. Carino. Quando verrà nel mio studio per la prescrizione degli esami, le darò qualche antidepressivo di ultima generazione. Nessun danno a livello gastroenterico, nessuna debilitazione, nessun paradiso artificiale, una regolata dell'umore. Vedrà tutto con maggiore oggettività e sarà più determinato che mai nel raggiungimento degli obiettivi. Non è escluso che possa essere nel paesino dove correrà la prossima gara. Ci saranno anche altri atleti che seguo. Posso darle del tu? Abbiamo più o meno la stessa età. In realtà, in faccia ho i colori della morte. Boh, dammi del tu, se ci tieni. Non ci sono farmaci disintossicanti. Non penso nemmeno ci possa essere una categoria di farmaci riferibili a questo aggettivo. Farmaco disintossicante non significa nulla. Penso questo mentre l'addetto alle iscrizioni mi consegna il pacco gara e il pettorale. È molto gentile, un autentico appassionato, conosce i miei primati personali, sa del quarto posto agli europei under 20 di corsa campestre, sa che sto mantenendo le promesse, che ho continuato a migliorare. Impercettibilmente, anno dopo anno, mi considera una promessa dell'atletica italiana, mi pare sincero. Vorrebbe scusarsi per il misero rimborso spese. Lo fermo afferrandogli la mano. So bene delle difficoltà di questi anni balordi. Gaudenti mi arriva alle spalle, solleva l'organizzatore dall'imbarazzo con qualche battuta ironica in dialetto romagnolo, un'allusione alla performance agonistica correlata a quella sessuale. Dovrei ridere, quasi ce la faccio. La risata finisce in una smorfia, un'improvvisa stilettata mi trafigge la zona sotto la costola destra. Alzo la canottiera come se dovessi constatare un rivolo di sangue e scendermi lungo il fianco. Sono arrivato verso le 8 di mattina. Il circuito internazionale parte alle 11, dopo le categorie amatoriali e la gara femminile sui 5 chilometri. Nella fase di riscaldamento ho volutamente ignorato Gaudenti. Per me rimane la carcassa macchinosa che ricordavo nelle categorie giovanili. Era grassoccio. Non voglio concedergli una confidenza che sarebbe il riconoscimento della sua nuova competitività. Ho due pasticche sotto l'anglingua che devono sciogliersi lentamente. 4 ore prima mi sono iniettato l'ultima fiala nel bagno di un'area di servizio dell'autostrada. Il sangue si fa vettore lento e possente di ossigeno. Al solito la forza si è manifestata con una stretta al petto. La sudorazione è sintomo di buona carburazione. Ho fatto il viaggio da solo, non ho chiesto nulla a Sara. Ho bisogno di giocare con il mio cervello e un viaggio di 3 ore in auto è un'occasione da cogliere. Il paese è anonimo ma ben tenuto. Le costruzioni del corso principale non ostentano magnificenza ma nemmeno abbandono. Ho corso in centinaia di cittadine come questa. Nei circuiti i chilometri vengono macinati nel ventre dell'abitato su vari giri. La gente si affolla lungo il perimetro. Nelle gare in linea, dopo la partenza si abbandona il centro per abbracciare campagne nude e desolate, fatte apposta per una fatica assoluta. Nella mezz'ora di riscaldamento sento le gambe agili, pulite. Sono molti gli atleti che mi salutano. Alcuni non li vedevo da tempo. Sono teso e do poca confidenza. Un ragazzo toscano mi affianca e mi chiede che fine avevo fatto. Senza aspettare la mia risposta inizia a fare pesanti allusioni sugli ultimi risultati di Gaudenti, che non ha ancora iniziato il riscaldamento e sta parlando con l'organizzatore. Il toscano è scandalizzato e curioso, conosce perfino il medico che lo segue, dice di averlo visto in giro per il paese con un paio di brutte facce. Tiberi è un atleta mediocre, per lui non prevedo altro che dignitosi piazzamenti in gare su percorsi collinari della sua regione. È una specie di mulo. Cosce da pesista, nessuna brillantezza, scarsa reattività, competitivo solo in salita e nei percorsi fangosi. A livello di battuta si dice pronto a rivolgersi anche lui a un bravo medico, ma l'ironia è appena tratteggiata, come se l'ipotesi fosse destinata a concretizzarsi. Smetto di ascoltarlo, mancano 15 minuti alla partenza della gara, devo togliermi la tuta e cambiare le scarpe. All'improvviso le gambe cedono, si fanno molli, insensibili, sudorazioni e battiti cardiaci aumentano senza ragione. Il campanile in fondo al viale è storto, lo era anche il mio arrivo nella prima mattinata, ma adesso si fa minaccioso, incombente. Davanti ad un negozio di fiori vedo il doctor in compagnia di 2 tecnici della nazionale. Gli faccio un cenno disperato perché mi raggiunga dall'altro lato della strada. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio.